Mercoledì, quarta settimana. Lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Inno. Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce. Viene Cristo, Signore. Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa. Con gioia pura ed umile, tra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore. Salvatore dei popoli, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo. A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Prima antifona. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio. Saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia. Svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò. Voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot. Mio è Galaad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro, Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti, e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Seconda antifona. Come in un manto mi ha avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia. Come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Per amore di Sion non mi metterò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così